ければ。 Se una radio è libera, ma libera veramente. Ascolta la radio. Radio e sessioni contagiano e con libere informazioni. Anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Bentornati a 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere, la trasmissione che vi racconta senza soluzione di continuità e senza pretesa di completezza la storia delle radio libere e in particolare di Radio Città Fujiko nei 40 anni dalla sua nascita. Testimonianze, aneddoti e curiosità, vecchi documenti sonori, riflessioni e rubriche per darvi qualche suggestione sul mondo dell'emittenza radiofonica libera e indipendente. I protagonisti di questa puntata sono Francesca Clementoni, giornalista e speaker, che ci spiegherà come e perché le radio libere sono sempre state una voce scomoda che il potere ha tentato di reprimere in molti modi. A questo proposito ascolteremo anche la registrazione dello sgombero di Radio Gap nel luglio del 2001. Andrea Gozza invece ci racconterà un aneddoto su come le radio abbiano anticipato di molti anni lo strumento dei torrent per scaricare musica. Ascolteremo poi un brano del concerto dei Rumba de Bodas per i 35 anni di Radio Città Fujiko e racconteremo la storia di una delle tante radio libere nate e poi scomparse. Buon ascolto! Cominciamo col dire che va bene che sono vecchia, ma non così vecchia da aver vissuto in diretta di persona i fatti di Radio Alice. Purtroppo li ho vissuti riascoltando varie volte le registrazioni della mattina dello sgombero, quando chiamavano aiuto, chiedevano alle altre radio libere di dare una mano, perché c'era una grande coesione tra radio libere, tra militanti politici, erano tutte comunque radio libere legate a movimenti politici e culturali e sociali di quel periodo, e la cosa che rimane impressa è chiamate i compagni di Radio Città per avvisarli di ciò che sta succedendo, e credo che quello rimarrà inciso non solo nel nastro o nell'MP3 oggi, ma nella storia e nella memoria di tutti. Si pensava che fossero cose passate, legate a un periodo molto intenso, la cosiddetta strategia della tensione, tutto ciò che era relativo a un periodo che tutti avevano storicizzato negli anni 70, e invece l'abbiamo poi rivista nel 2001. Una cosa simile a Genova, quando eravamo là con Radio Gap insieme alle altre radio italiane, Radio Onda Rossa, Radio C Roma, Amisnet, l'agenzia Amisnet, Radio Onda d'Urto, Radio Blackout di Torino, Radio K e Radio Fujiko allora, ovviamente. Eravamo tutti lì, stavamo trasmettendo una settimana molto bella, molto intensa dal punto di vista dell'approfondimento culturale e contenutistico. Abbiamo visto passare persone da tutto il mondo, dai Coccalero, Savandana Shiva, tutti all'intelligenza, diciamo, che guardava a un mondo nuovo, a un mondo più a misura d'uomo, che non fosse dominato dall'economia, che tornasse a parlare di politica intesa come sistemazione delle esigenze umane e della collettività. Questa settimana è stata bella fino al corteo dei migranti, dopodiché sappiamo tutti che c'è stato l'omicidio, l'assassinio di Carlo Giuliani, la grossa repressione della manifestazione del sabato, e per chiudere in bellezza la sera, la notte mezzanotte precisamente, a mezzanotte 20, l'assalto a quello che era il media center, a tutto ciò che era stata la comunicazione di quella settimana, che non erano state le ostriche della nave dove si svolgevano i lavori del summit del G8, ma era stato tutto ciò che si era mosso fuori e al confine della linea rossa. Quindi quale simbolo migliore da attaccare per chiudere in bruttezza, si potrebbe dire, se non le comunicazioni, dove c'era Indymedia che aveva cablato una scuola in maniera pionieristica. Allora non erano cablati i palazzi se non quelli istituzionali, e ancora poco. Comunicazione Libera, dove si giravano video, si facevano audio, e non si era più a livello di controinformazione come era quella degli anni 70, ma si era inventata, passatemi il termine, la comunicazione dal basso del cittadino che si trovava in una situazione e cominciava a comunicare, che poi è stato sviluppato negli anni successivi con il citizen journalism, di media, Radio Gap, c'erano tutte le realtà di movimento che comunicavano. E guarda caso, oltre all'assalto al media center, c'è stato l'esproprio di legge, diciamo così, da parte della legge, tra virgolette, di tutti gli hard disk che contenevano questi materiali, anche quello del gruppo medico e del gruppo legale che assisteva le persone in quei giorni. Lo sgombero di Radio Alice e quello di Radio Gap sono forse, come dire, gli aspetti più cruciali, ma le radio libere nel loro percorso hanno vissuto anche fasi di intimidazione. Tu hai seguito fin dal principio la vicenda, ad esempio, sulla morte di Federico Aldrovandi, e la radio ha dovuto, come dire, anche scacciare alcuni tentativi di intimidazione. Ma assolutamente, non solo la radio, anche i quotidiani che se ne sono occupati. Devo dire che regolarmente, quando si intervistava Patrizia Moretti, la mamma di Federico, regolarmente il giorno dopo arrivavano le forze dell'ordine a chiederci la registrazione, perché c'era stata la denuncia di qualcuno o comunque la segnalazione di qualcuno. Vi lascio a voi decidere chi era questo qualcuno, ovviamente. Purtroppo la repressione passa dal di lì, passa dal fatto che si cerca con queste registrazioni, con queste denunce, di fermare l'informazione. Però posso dirti una cosa, oltre a questo c'è anche un'intimidazione burocratica, vogliamo definirla così, perché realtà piccole e fragili come la nostra, basta una leggina applicata o interpretata in un modo o in un altro e chiude. Per cui, come sappiamo, il sistema legislativo italiano è sempre molto alla libera interpretazione del giudice di turno. Basta una minima cosa burocratica, che può essere il pagamento dei diritti di qualcosa o, che so, la riforma del sistema radiotelevisivo, eccetera, per chiuderti completamente. E anche questo viene usato, è un sistema molto più subdolo, meno appariscente, che non le forze dell'ordine che ti arrivano in radio e ti chiedono le registrazioni, ma molto molto più pericoloso. Davvero piccole radio indipendenti fanno paura? Oppure, come dire, c'è una volontà, perché comunque una forma di dissenso non deve esistere al di là di quanto incida? Ma guarda, dipende dai momenti, secondo me. Ci sono dei momenti in cui mezzi di informazione che non si allineano, diciamo così, vengono tollerati, perché fa comodo, fa buono, come si dice, no? Come sono buono, guarda, che salvaguardo anche queste realtà di nicchia. Ecco, questo sarebbe un po' il meccanismo. Dopodiché ci sono dei momenti in cui queste realtà di nicchia danno fastidio, perché fanno pensare, perché danno un punto di vista diverso, che non è quello concordato con le testate mainstream, e che quindi non si allineano alla velina, ma magari fanno nel loro piccolo, perché le risorse sono quelle che sono, ma fanno inchiesta, fanno venire dei dubbi, mettono insieme delle informazioni che gli altri media non mettono insieme, quindi dando un quadro diverso delle situazioni. E a quel punto lì, allora, a seconda del momento, se è un momento delicato per chi ha il potere, ovviamente, per chi detiene il potere, allora usa le armi che possiede contro queste piccole realtà, che comunque mantengono un pensiero vivo, e questo è il problema. Dall'archivio. Non sta succedendo il panico veramente, però non c'è ancora la polizia dentro Radio Gap. Appena vediamo il primo carabiniere o poliziotto sbucare, non sappiamo di che cosa si tratta, ve lo comunichiamo. E la polizia, si sta arrivando la polizia? Sta arrivando? È qua dentro? È dentro al cortile la polizia. È dentro al cortile,

Radio Città, ad esempio, faceva un programma che si chiamava Il Vinile Quotidiano, dove metteva su un disco senza interruzioni dall'inizio alla fine, e quello era una modalità per scaricare la musica da lettere, in questo caso non dalla rete. Questo per dire, no? Cioè, se facciamo delle comparazioni, oggi clicchi, scarichi 30 secondi, lì ti ascoltavi tutto il disco, bastava semplicemente che tu dovevi essere pronto al momento in cui partiva l'emissione del disco. Quindi, lo speaker però lo diceva. Lo diceva, ora oggi ascoltiamo lato A di tale disco e tu a casa e col registratore registravi, cose che poi si faceva anche prima. Quanta gente con il proprio registratore K7 a cassette della Philips, i primi registratori cassette col microfono, ascoltavano la hit parade della Rai per registrare la canzonetta e poi se l'ascoltavano in quella qualità lì, però questo per dire era un po' la modalità di era costruire. Un torrent ante litteram. Esatto. In un certo senso un torrent a manovella. Il concerto 12 novembre 2011. Effettivamente è un momento abbastanza topico. Stiamo celebrando 35 anni di Radio Città Fujiko, ragazzi. È un miracolo, rendetevene conto. La band è finalmente pronta. Signore e signori, Rumba de Boda. C'era una volta. Radio San Lazzaro. Nata nel 1978 a San Lazzaro di Savena per volontà di un gruppo di ragazzi studenti alle superiori, Radio San Lazzaro iniziò le sue trasmissioni dalla cantina di uno dei suoi fondatori. Pochi watt ma tanta passione. La cantina cominciò ad andare stretta e nel corso del 1979 Radio San Lazzaro trovò la sua sede in via Zucchi al numero 5. L'aiuto di Radio Logica Imola per quanto riguardava le apparecchiature di trasmissione si rivelò fondamentale. Orientale. Nella nuova sede, in cui gli spazi erano decenti, i fondatori, a cui si aggiunsero altri ragazzi, iniziarono la vera e propria costruzione della sala trasmissione, della sala registrazione, dell'ufficio e di un piccolo salotto d'attesa. Tutto self-made, con autofinanziamento. Fu costruito il ripetitore, sempre autofinanziato e autocostruito, al passo della Badessa, nelle colline sopra Ozzano Emilia, a 50 metri dal ripetitore dell'allora X-Radio. Dal settembre 1979 la radio iniziò a avere trasmissioni regolari, che in certi periodi coprivano in diretta le 24 ore, grazie al contributo volontario di studenti universitari che coprivano la fascia notturna. Nel corso del 1980, periodo di massima espansione del segnale, che viaggiava sui 104.4 MHz, la radio, oltre a coprire interamente San Lazzaro, veniva ascoltata con buon segnale nei quartieri San Donato, Savena e ovviamente nei comuni di Ozzano, Budrio e zone limitrofe. L'offerta musicale spaziava in tutti i generi, dal folk al pop, dal rock alla disco. La raccolta pubblicitaria, prevalentemente nel comune di San Lazzaro, consentiva a malapena di pareggiare il conto delle spese, ma erano più i periodi in cui si doveva mettere mano al portafoglio che quelli in cui non lo si faceva. Alcune vicissitudini legate al fatto che molti ragazzi si dovettero assentare per il servizio militare, a problemi tecnici relativi a trasmettitori autocostruiti e al nascere di altre radio che con potenze molto superiori spesso coprivano il segnale, portarono nel corso del 1981 a prendere la sofferta decisione di interrompere un'avventura entusiasmante, costruttiva ed intelligente, realizzata da un gruppo di minorenni o poco più che maggiorenni che ha avuto la volontà e la passione per l'etere. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd, while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to eat in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees, while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio we heard November rain, that solo's real long but it's a pretty song. We listened to it twice 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood, and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep. On the radio, on the radio, on the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio, uh-oh. On the radio. Questa puntata di 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere, finisce qui. Vi ricordo che sul sito radiocittafugico.it potete riascoltare la trasmissione attraverso il podcast. Noi ci sentiamo la settimana prossima. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fugico.